Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 10 febbraio 2015. Meno anidride carbonica nella borsa della spesa degli italiani. Siamo sempre più attenti a cosa compriamo, in particolare quando dobbiamo rifornire la dispensa. Lo facciamo per risparmiare, certo, e per scegliere prodotti di qualità, ma ora anche per ridurre il nostro effetto negativo sull'ambiente. La conferma di questo trend arriva dal WWF, che rivela come in questi ultimi anni sia aumentata l'attenzione degli italiani per l'impronta ambientale della borsa della spesa. Anche le aziende stanno imparando a fare i conti con questa tendenza. Diverse hanno scelto di indicare nell'etichetta dei prodotti il costo per l'ambiente, con l'indicazione dei CO2 prodotti lungo la filiera. Importante il ruolo delle iniziative di sensibilizzazione lanciate in questi anni, a partire dal carrello della spesa virtuale lanciato 3 anni fa dal WWF. Fin qui la notizia del 10 febbraio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. In questi mesi infatti sul sito del WWF si può imparare a misurare il peso ambientale delle nostre scelte al supermercato. Eva Alessi, responsabile sostenibilità WWF Italia. Il carrello della spesa è una piattaforma online in cui il consumatore può, viaggiando tra i vari reparti di un supermercato virtuale, quindi reparti che considerano la carne, il pesce, la frutta, la verdura, le bevande, i dolciumi, tutto quello che si serve in una casa normale, può scegliere i propri prodotti, scegliere le quantità che acquista settimanalmente e quindi alla fine ottenere il peso ambientale in uno scontrino che non riporta il prezzo, in realtà il prezzo economico, ma appunto quello ambientale delle proprie scelte alimentari in chiave di emissioni di anidride carbonica e quindi impatto sul clima e in chiave di in metri cubi di acqua consumati, quindi impatto sulle risorse idriche del pianeta. Qual è la situazione da questo punto di vista nella sensibilità del pubblico e delle aziende? La sensibilità delle aziende è sicuramente in aumento. Si riscontra anche un maggiore interesse alla ricerca di nuove etichettature sia energetiche sia idriche di prodotto. Dal punto di vista dei cittadini c'è sempre un maggiore incremento dell'interesse sia per quel che riguarda l'importanza dell'impatto ambientale di quello che mangiano, anche perché spesso l'impatto ambientale di quello che si mangia coincide anche con l'impatto ambientale sulla propria salute. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.